Com'è strano incontrarti di sera in mezzo alla gente, salutarci come due vecchi amici, ehi, ciao, come stai? Quando un giorno di notte m'hai detto non ti lascerò mai. Quando un giorno di notte t'ho detto non ti lascerò mai. E adesso siamo occhi negli occhi e non serve a niente parlare. Ho la mappa di tutti i tuoi nei, io la potrei disegnare. Nei tuoi occhi trovo i miei giorni di qualche anno fa, le domeniche senza far niente, voglia di sincerità. Parliamo un po', raccontami quello che fai, sei la stessa che un giorno m'ha detto non ti lascerò mai. Quando un giorno di notte m'hai detto non ti lascerò mai. Giorno di notte t'ho detto non ti lascerò mai. Io ti cercherò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò, e dentro quegli sguardi mi ricorderò di noi. Chissà se si chiamava amore. I tuoi occhi mi trovo nell'attimo prima in cui sto per baciarti. L'universo si ferma un istante perché vuole ammirarti. Tutto il resto mi passa le mani come la sabbia del mare. Resta solo un diamante che brilla e che continua a brillare. Ogni volta che mi torni in mente continua a brillare. Un angolo della mia mente ti continua ad amare. Io ti cercherò negli occhi delle donne che nel mondo incontrerò, e dentro quegli sguardi mi ricorderò di noi. Chissà se si chiamava amore. Cercherò degli occhi delle donne che nel mondo incontrerò, e dentro quegli sguardi mi ricorderò di noi. Chissà se si chiamava amore.